alta voce. Patrizia Zappa Mulas legge I padri lontani di Marina Jarr. 14ª puntata. Rendevo conto già allora che i miei repentini sussulti di collera non avevano a che fare con il coraggio consapevole d'un fine. Appena sbolliti, mi rammaricavo per i loro effetti e non ne ero fiera, ma molto difficilmente riuscivo a dominarmi. Per un eccesso di ira contro il professore di lettere che aveva preso in giro la mia amica Evi, ero stata sospesa in quinta ginnasio, la prima ragazza della scuola a cui era stata inflitta una sospensione. E rischiai addirittura la mia vita e quella di altri in un'occasione molto più grave. Avevano ammazzato uno dei militari fascisti di Torre Pellice e il funerale era previsto, con invito alla popolazione di parteciparvi, per le 3 del pomeriggio. Poco prima di quell'ora mi era venuto in mente qualche cosa da dire a una mia amica che stava nelle case nuove, cioè le case dei professori del collegio. Andai dunque in fretta da lei. La strada era deserta e le finestre tappate dalle persiane chiuse. Mentre stavo per tornare indietro uscendo dalle case nuove, vidi spuntare in fondo alla strada, proprio accanto al monumento di Arnaud, il funerale del fascista. Un gruppetto sparuto di uomini in divisa, la bara portata a spalla. Mi voltai e rientrai di corsa nella casa. Però, 5 minuti dopo, un gran fragore di pugni contro la porta ci annunciò l'arrivo dei fascisti. Ci condussero fuori la mia amica, sua madre e me. E là, un ometto nero, gesticolante, ci ingiunse di salutare con il saluto fascista la bara del camerata caduto. «Ti ho vista, carogna, mentre scappavi in casa per non dover rendere omaggio al funerale. Carogna, come tutte le altre carogne del paese!» Davanti al piccolo fascista che schiumava, le note vampate incominciarono ad assalirmi. Pensai, mai e poi mai farò il tuo saluto. Poi scorsi accanto a me le 2 donne, la mia amica e sua madre, pallidissime, le ricordo addirittura verdi, che alzavano il braccio tremante. Questo tremito visibile mi ricondusse a un tratto alla vergogna di me, non ancora alla paura, e alzai il braccio nell'ultimo saluto fascista della mia vita. Non appena i fascisti si furono allontanati su per la strada verso il cimitero, le mie compagne, eravamo rimaste come di sasso, ferme davanti alla casa, presero a insultarmi. Ciò mi agitò assai più che la scena precedente, poiché non sopportavo di essere apostrofata come pazza. Nelle occasioni in cui, in qualsiasi modo, mi accorgevo o temevo di sfigurare quali che fossero le circostanze, si appiattivano sullo sfondo i valori e restavo solo io in primo piano, io coi miei gesti goffi e il mio apparire sgraziato, restavo io da recuperare o da difendere. Nell'ultimo inverno di guerra lavorai a Torino, dove Franchi mi aveva incaricata di assistere i profughi francesi alloggiati nelle casermette di San Paolo, con l'aiuto di un centro clandestino che funzionava quasi apertamente, nella solita, per me, orrenda imprudenza, in un palazzo patrizio, forse in via Maria Vittoria. Con le 500 lire mensili guadagnate in questo lavoro mi mantenevo a Torino, dove non stavo per i profughi e tantomeno per il centro di via Maria Vittoria, ma per amore del mio A. Nel corso delle visite alle casermette, in cui ogni tanto Franchi, fornito di barba e carte false, mi accompagnava, durante quel freddissimo inverno ebbi i geloni sin dietro le ginocchia, avevamo conosciuto una coppia di francesi non più giovani. La loro bimba di 3 mesi, una creaturina grigia e stenta che la madre non poteva allattare, cresceva male e non digeriva il latte di mucca. Una volta, che ritti in piedi davanti a lei, ascoltavamo la donna, era una montanara chiusa e dignitosa, raccontarci con parole mozze della bimbetta a cui stava dando il biberon, vedemmo la donna scoppiare a piangere. Le lacrime scorrevano sul viso, ma non poteva asciugarsele perché con una mano reggeva il biberon e con l'altra la bimba. Franchi allora, con un gesto piano e delicatissimo, prese il biberon e lo tenne al livello giusto. Era il maggiore di una numerosissima famiglia, perché mentre la bimba continuava a mangiare, la madre potesse asciugarsi gli occhi. Ancora una volta Il suo gesto mi sorprese. Trovavo la bimbetta poco appetitosa nel suo odorino acido. Essa morì poco dopo, di polmonite, nonostante il latte in polvere adatto che Franchi era riuscito a scovarle. Su incarico di lui mi toccò portare al funerale un enorme ingombrante trofeo di fiori. Ero furibonda perché mi toccò prendere il tram con quel grottesco aggeggio e partecipare a un incomprensibile funerale cattolico con i genitori singhiozzanti dietro la minuscola bara della bimba grigiolina. Partendo, essi mi affidarono un po' di denaro raccolto in colletta per curare la sistemazione della tomba della bambina. Lasciai passare i giorni e per finire spesi neghittosamente i soldi per conto mio. Non andai mai al cimitero, dove avrei dovuto cercare, facendo di certo ridicola figura, il custode in quella immensità di tumuli. Aveva il suo numero la bimbetta per sapere come eseguire le pratiche. Scrivevo nel mio diario: mi credono sensibile, ma non è vero, sono semplicemente d'un orgoglio infernale. Avevo 15 anni quando andai in piazza il 10 giugno ad ascoltare il discorso di Mussolini. Ne avevo 20 quando vidi partire i tedeschi da Torre Pellice. Quelli che si è soliti chiamare i migliori anni della vita sono compresi per me tra queste due date. La guerra e la lotta partigiana fecero parte delle mie giornate, non diversamente dall'odore dell'aria invernale e degli ululati dei cani nelle sere buie di novembre. Ed ecco che mi ritrovai adulta, considerata adulta, quasi che le vicende precedenti, gli accadimenti, insomma, mi avessero maturata più in fretta. Ma che sia stata, mi chiedo adesso, una maturazione artificiale? Né più né meno di quella odierna dei giovani teppisti di periferia. La morte dei coetanei, quella che vedi appesa alla forca con il viso livido, piegato, può darti un macabro ottimismo di centenari, un illusorio senso di potere, quasi tu avessi in mano ormai le tue conclusioni e non ci fosse altro da raggiungere. E così te li dà la libertà conquistata ma non conosciuta, ereditata neppure dai genitori, ma dai nonni, proprietà che molti di noi non erano capaci di amministrare e rimasta così in gestione ai genitori. Siamo vissuti come il principe ereditario che incanutisce e ingrassa mentre l'intramontabile vecchio sovrano continua a governare e impiccare. Abbiamo civettato con i capi della congiura e gli abbiamo raccontato di quando abbiamo difeso la Repubblica e anche noi siamo stati ribelli, ma ci piacevano i sigari e le vacanze a Biarritz. Ci hanno dunque lasciati fare, anche se eravamo troppo fertili di figli. Di quali contrasti e tardive riflessioni mi abbiano seminato la guerra e la resistenza e forse un piccolo sintomo premonitore il seguente episodietto che qui voglio raccontare. Eravamo nel 46 occupati in un'orgia di recite teatrali. Recitavamo tutti e tutto, chi meglio chi peggio, in compagnie raccogliticce con pochi rudimenti essenziali. Mi piaceva non solo recitare ma anche dirigere. Misi così in scena a Torre Pellice non Edda Gabler, ahimè, ma La luna è tramontata. Finito lo spettacolo, ritornammo a casa a mezzanotte, gli attori ancora vestiti delle divise tedesche, e attraversando a passo di marcia il paese ormai vuoto e buio, presi da un umore malinconico e sacrilego, intonammo a voce spiegata un canto di guerra tedesco, quasi a prolungare sulla strada lo spettacolo di poc'anzi. Marciammo sempre cantando sino alla caserma accanto alle scuole elementari. La caserma allora era vuota e il portone spalancato. Entrammo nel cortile e ci sedemmo sugli scalini. A poco tacemmo, guardando la luna. Solo in quel momento mi resi conto che la guerra era davvero finita, ma che a lei ci richiamava come alla nostra stessa giovinezza quel canto nemico nel quale eravamo condannati a rimpiangere gli amori passati e gli amici morti. In data 29 aprile trovo sul mio diario l'annotazione riportata più sotto. Torre Pellice era stata appena liberata. I tedeschi se n'erano andati sui loro camion. Dietro l'ultimo camion correva qualche fascista appiedato tentando di aggrapparsi alle sponde del veicolo. Mia sorella e Marisa, quando i partigiani erano arrivati alla nostra strada, erano andate loro incontro con le braccia cariche dei fucili di alcuni ragazzi della Littorio che esse avevano persuaso a nascondersi nelle cantine per poi consegnarsi prigionieri. Appena partiti i tedeschi, il paese si era riversato nelle strade e poche ore dopo si sentivano già dai giardini pubblici i tonfi della gran cassa. Si ballava, si cantava, nessuno badò a un gruppetto di francesi che scendevano per le stradone del Villar cantando la Marsigliese e che venivano a offrirci di approfittare dell'occasione per liberarci subito, tout court, della dominazione italiana. Nelle ore dopo la partenza dei tedeschi avevo avuto per la prima volta una paura terribile. Ero sicura che sarebbero ritornati a vendicarsi, non sarei forse ritornata anch'io? E inoltre stava fermo all'incrocio della nostra stradina con la strada principale un carretto carico di munizioni, alto, d'una forma singolare, che ricordava quella di un chepì. Questo carretto era stato lasciato indietro dai militari della Littorio che avevano occupato nei due ultimi giorni la nostra casa, tappato il gabinetto e ascoltato ininterrottamente la radio. Io avevo portato in cantina i miei libri raccolti in una coperta e in cantina avevo anche dormito molto tranquillamente su un pagliericcio. Ora però temevo che uno sparo isolato colpisse il carretto e ci facesse saltare in aria con tutta la casa. Difatti i tedeschi ritornarono, ma lo stesso sparo isolato di mortaio, credo, che non aveva colpito il carretto, sventrò invece all'entrata del paese il primo camion della colonna tedesca che portava il lanciafiamme, polverizzandolo. L'indomani la gente indicava ai margini della strada pezzetti di cervello rimasti appiccicati al lastrico. Passatami la paura, ero piombata in quello stato di depressione che accompagnava il ritorno delle mie gite in montagna. Ancora una volta l'avventura mi era passata accanto e non ero stata capace di coglierla e goderla. Non riuscivo per nulla a partecipare alla gioia generale e gli anni passati, divenuti storia appunto nel successo finale, oh bene che hai vinto sul male, mi apparvero ancora una volta come un'immensa, insensata montagna di cadaveri. Andai al cimitero da sola. All'entrata, proprio sotto l'androne, trovai il medico e il becchino accanto ad alcune bare aperte. Dentro alcuni cadaveri rigidi nelle uniformi della Littorio. Ritornata a casa, scrissi appunto nel mio diario: Torre, sera 20 aprile 1945. Stanotte voi dormite lì al cimitero, senza fiori, nelle rozze casse, senza lacrime, tedeschi e ragazzi della Littorio. Io ti ho visto oggi, te che non conosco, riverso nella cassa, con il viso sporco di sangue e di terra, la bocca aperta come per gridare e le tue mani abbandonate lungo il corpo, mani di ragazzo indifese. Le altre tombe dei partigiani erano coperte di fiori. Per le strade del paese ci sono le bandiere. Fratelli, perdonate questa gioia. Fratelli, perdonate il sorriso delle mamme e delle spose. Fratelli, perdonate ai partigiani morti quello che resta di loro sulla terra. Voi che non lasciate niente, soli in un cimitero straniero. In margine, in data 3 luglio 1945, avevo visto per caso, annesso alla proiezione di un film a Torino, il primo documentario sui campi di concentramento. Campi di concentramento di Buchenwald. Fratelli, vorrei avere il diritto di perdonarvi. Degli anni precedenti, un solo grido mi ferì sino in fondo, oltre la barriera della pietà complice e dell'ira impotente, e mi trafisse, incerto ancora come un presentimento, un grido che forse io non avrei gridato, ma che qualcuno gridava verso di me. I tedeschi impiccarono una notte, tra l'albergo di Evi e il peso pubblico, un ragazzino, mi pare veneto, di 15 anni, trovato addormentato di stanchezza su per la montagna, con accanto il fucile. Evi aveva sentito il tramestio verso l'alba, si era alzata e aveva aperto la finestra. Attraverso il buio che si andava schiarendo, aveva udito il ragazzo invocare la madre. Quando l'indomani me lo aveva raccontato, mi ero messa improvvisamente a piangere, ma le lacrime che mi bagnavano il viso non venivano dai miei libri e dalle mie fantasticherie, e neppure più indietro, dall'ormai pietrificata infanzia, scorgavano dal mio corpo per la prima volta consapevole di sé, dentro il quale avrei voluto nascondere e proteggere il ragazzino sconosciuto. Della fine di mio padre ci giunsero notizie esatte ben 10 anni dopo, attraverso le indicazioni avute da mia sorella in un incontro fortuito negli Stati Uniti con un lontano cugino superstite. Mia madre e mio padre, ormai separati per sempre, erano vissuti a Riga, ciascuno per conto proprio, collegati tra di loro da una lunga vicenda giudiziaria, proprio perché ognuno reclamava l'affidamento delle figlie. Avevo trovato incustodito nel buffet del soggiorno della casa di Torre Pellice tutto l'incartamento della sentenza di primo grado del divorzio. La copia era in tedesco e la nonna certamente ne ignorava il contenuto. La parte lesa era sorprendentemente mio padre. Nell'elenco delle accuse che le parti si rivolgevano, la lista degli amanti attribuiti dal marito alla moglie, nomi sconosciuti, tra i quali purtroppo il ben noto spagnolo, poi la malattia venerea che la querelata aveva contratto dal querelante, l'occhio blu testimoniato dalla cameriera come prova delle botte date dal signore alla signora e la nascita illegittima di una bimba di mio padre. Non avevo parlato dell'incartamento a mia sorella. Lei, che interrogata allora dopo di me nel salone sul conoscente spagnolo mi aveva decisamente contraddetta, mi avrebbe di sicuro tacciato di infedeltà. Ero comunque colpevole per aver indovinato e tradito. Ma soprattutto tacqui per vergogna. Vergogna per le due parti che erano mio padre e mia madre, così simili qui a quegli sconfitti per cui provavo schifo e pietà insieme. Eppure la lettura di questa sentenza non mi distolse dal provare una pena più profonda per mia madre. Compassione per lei, sorpresa nelle sue malaccorte menzogne che dovevano servirle a tenere in piedi il suo orgoglio. E questa fu in realtà la sola pietà che sentii per lei vecchia, seduta dritta nel suo bel vestito beige rosa, la broche sulla spalla, attenta ai discorsi che si stavano facendo, la risposta pronta, la memoria perfetta. La sua infelicità stava su di me come una nube remota, alta ma buia. Mia madre ci scriveva lettere tenerissime, giungeva a casa colma di doni. Negli anni di guerra veniva dalla Bulgaria, dove dirigeva un istituto di cultura italiano, dopo essere fuggita fortunosamente dalla Lettonia durante l'occupazione sovietica. Arrivava con viaggi di tradotta e portava valigie piene di zucchero, prosciutto, cioccolata e persino uova. Ma appena arrivata, attesa e desideratissima, si rifugiava nella sua scontentezza e sembrava sempre sul punto di essere delusa. Solo a tratti, in occasioni casuali, risentivo la nota sonora e spavalda nella sua voce. Stava chiusa ore nella sua camera, fumava moltissimo, leggeva, rispondeva irritata alla nonna, che aveva addirittura un certo rispetto per lei e non era per nulla affettuosa né con me né con mia sorella. Tra lei e me altri avevano funzionato da schermo: dapprima le governanti che mi avevano allevata da bambina, poi la nonna e infine Zizi, che talvolta riusciva ancora a farla ridere. Una volta, verso i miei 15 anni, mi trovò in lacrime sulla panca del giardino e mi chiese che cosa avessi. Avevo che, uscita poc'anzi in un vestito nuovo, m'ero vista confermare dalle occhiate derisorie di alcuni compagni di scuola incontrati in piazza che l'orlo del vestito, scelto da mia madre perché si compiaceva lei, rassomigliava alla veste della primavera di Botticelli, era effettivamente troppo lungo. Non avevo osato insistere per fare accorciare l'orlo. Risposi dunque che ero infelice perché ero brutta. Le vidi passare sul viso un compianto timido, quasi di scusa, e mi accorsi che cercava qualche parola di consolazione. Per finire disse: «Ma no, hai dei così bei capelli». A 16 anni andai un pomeriggio dal parrucchiere e mi feci tagliare le trecce che finivano in un boccolo così perfetto che le mie compagne insinuavano che fosse fatto con i bigodini. Quando tornai a casa con i capelli corti, mia madre osservò soltanto: Mite, come quella volta in salone con mio padre, che peccato, con i tuoi bei capelli. Talvolta invece si scatenava in scoppi improvvisi e distruttivi in cui sembrava sfogare, come liberata, tempeste represse, in un linguaggio violento e persino grossolano, in una mano la Bibbia e nell'altra l'archibugio. Se rispondevo, lei, sorpresa, si ritirava, ferita dalla mia ira. I nostri litigi erano però rarissimi. Non osavo affrontarla, tenuta a bada dalla sua infelicità, e spesso si esprimevano in lettere lasciate l'una all'altra sul tavolo. Se tardavo a ritornare da una vacanza, non sopportava in genere che facessi vacanza, mi scriveva cartoline furibonde ricordandomi i miei doveri. Non si fidava della velocità con cui studiavo e mi assillava sulla scadenza dei miei esami, in cui non ero affatto indietro. La trovo menzionata due volte nel mio diario, in una mezza pagina di recriminazioni sulla vita di famiglia. Anche una gatta ama i suoi gattini, ma non rimprovera loro il latte dato. E invece, brevemente, in un altro punto, mia madre è una cara donna. Di nostro padre non ci parlò mai. Qualche volta riferiva di lui la nonna. Era andato, raccontava, un conoscente a casa nostra, a Riga, dove lui viveva insieme con la sua bimba, che la madre tedesca, un'infermiera, gli aveva lasciato per ritornarsene in Germania con un passaporto razziale pulito. Lui doveva raggranellare denaro dopo un fallimento e stava vendendo mobili, arredi. Conducendo il compratore in giro per la casa, gli aveva chiesto, affermava la nonna, se voleva in sovrappiù Irene, la bimba, che lo seguiva dappertutto, aggrappata alla sua vestaglia. Mi sembrò subito di vederla. A questa immagine ripensai spesso ed era l'unica che riaffiorava da un passato trascorso e concluso, ormai sommerso nell'attesa di un futuro riparatore. Quando ero già madre, mentre scrivevo il mio primo libro, lo dedicai a Irene, che morì a 6 anni insieme a mio padre. Mi sembra che null'altro mi leghi a lui se non la memoria di quella morte e la voce mai udita della bimba Irene. La sua morte è rimasta dentro la mia vita come un seme nascosto, e via via che vivevo e invecchiavo, essa è cresciuta nel ricordo, non diversamente da un lungo amore, nutrito anche dalla tenerezza per i giovani corpi dei miei figli, verso i loro gesti, le loro risate, verso membra, gesti e risate dei loro coetanei. Da qui è nata, seppure tardi, come nel mio costume, la mia pietà adulta, come nascono dal gelsomino sarmentoso le radici per ritornare alla terra che le ha generate, uniche radici che riconosco mie. Patrizia Zappa-Mulas ha letto I padri lontani di Marina Jarr. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.